capiremo prima o poi che non c'è modo di rinascere senza peccare. La tua voglia di rinascere o è solo che non sai come finire, e forse fa un po' male. Carburante nobile scoperto che non è così male, tradirsi con rispetto.